grazie intanto a Federico Mutti, presidente di Bologna Jazz Festival. Cosa si intende con la definizione Jazz Valley e perché si parla di cultura jazz e non musica jazz? Jazz Valley è un'estensione, visto che è stato coniato il termine Motor Valley, avevamo pensato che con la tradizione musicale che c'è in Emilia Romagna poteva tranquillamente essere ribattezzata Music Valley e perché no anche Jazz Valley, in quanto insomma in seno all'Emilia Romagna, a Bologna, è nato il nostro festival che è uno dei più antichi d'Italia, ma anche Crossroads, che è il festival più esteso a livello regionale, uno dei più estesi a livello nazionale, e Jazz Club Ferrara, il Torrione, che è un fiore all'occhiello, è votato come migliore jazz club già da anni, ma noto anche a livello internazionale, insomma. Quindi diciamo che l'unione delle nostre tre realtà, che poi collaborano con altre decine di realtà, quindi è l'unione veramente di decine di realtà, può rispecchiare il principio gestaltico de il tutto è maggiore della somma delle singole parti, ossia non è semplicemente l'unione di tre persone che collaborano, ma creano qualcosa di nuovo. E qui rispondo alla tua seconda domanda, che è questo slogan della cultura jazz in Emilia Romagna, perché per anni ci siamo interrogati su che cosa, su quale potesse essere la differenza tra un festival e una rassegna, visto che facevamo un festival e non solo un elenco di concerti. E poi dalla scomparsa di mio padre 10 anni fa, che era co-direttore artistico con Francesco Bettini, io, per quanto appassionato di musica jazz, ho deciso proprio di concentrarmi su tutto ciò che non fosse la concertistica e quindi di costruire attorno un percorso culturale che mettesse al centro proprio la cultura del jazz, che musicalmente, visto che il jazz non è un genere ma un linguaggio, abbraccia dalla classica all'elettronica, passando per il rock, il pop, e quindi poteva essere declinata, perché no, anche nel fumetto, nell'illustrazione, nella storia. Quindi ci sono state tante conferenze e abbiamo costruito un percorso, un progetto didattico poi dedicato a mio padre, che si è esteso toccando tanto conservatorio e licei, quanto anche ad esempio l'Accademia delle Belle Arti e il liceo artistico. E quindi diciamo questa commissione di discipline, secondo me, è emblematica, visto che comunque questo genere musicale, anzi questo linguaggio, è quello che più ha posto enfasi sull'unicità di ogni singola voce, diversa da tutte le altre, quindi la pluralità e la conciliazione tra diversi. Io credo che, riassumiamo questo con lo slogan che ho citato prima di Thelonious Monk: "A genius is the one most like himself." Il genio è quello che più somiglia a se stesso, ossia le nostre individualità messe insieme che compongono un qualcosa di più alto. Qual era la relazione tra le tre realtà, quindi Bologna, Ferrara e Ravenna, prima di Jetzer, e come si evolverà questa relazione? Ci sono possibilità di future espansioni? La relazione era amicale, noi collaboravamo con Ferrara e Ferrara collaborava con Crossroads e noi non collaboravamo con Crossroads, quindi abbiamo rischiato di pestarci i piedi in un paio di situazioni, e quindi davanti alla scelta se essere concorrenti o unirci in uno sforzo comune per crescere e quindi creare qualcosa di maggiore di una somma, abbiamo optato per la seconda. Questo peraltro lo abbiamo fatto davanti a un piatto di tortellini, siamo usciti a cena tutti insieme dopo un concerto e lì è nata quest'idea, e secondo me non è neanche accidentale, perché comunque in Emilia Romagna si mangia bene, si sta bene e questa aiuta, la convivialità aiuta, assolutamente aiuta, aiutato l'unione. Io credo che adesso, cioè, però non si tratta di mettere solo tre realtà, noi abbiamo chiuso un triangolo, diciamo, ma questo triangolo porta a chiuderne tanti altri. Noi collaboriamo con decine di realtà, Sandra Costantini non riesco neanche a elencarle, e anche Ferrara. Queste realtà potranno collaborare anche tra di loro e noi creeremo proprio un supporto per poter facilitare questo, partecipare ai bandi, eccetera, insomma. Ci sono invece collaborazioni particolari da ricordare, sponsor? Allora, grazie che me lo chiedi, perché lo avrei detto in chiusura. Quello che voglio citare è che le collaborazioni sono infinite e comunque tutti coloro che stanno già sostenendo i nostri festival sono in qualche maniera partner di Jetzer. Però vogliamo ricordare che Gruppo Era, anziché quello che accade di solito, che noi andiamo a chiedere, Gruppo Era ci ha chiamato e ci ha detto: vogliamo credere in questo progetto, proprio al buio, nel senso che il progetto non è ancora uscito, ne avevano solo sentito parlare, e ci hanno proposto il loro sostegno come main sponsor, quindi anche un sostegno come posso dire, di sostanza, e per poter promuovere questa cosa e anche per poter dire che sono stati i primi a crederci. E io questo veramente voglio, ci tengo a dirlo, perché Gruppo Era fin dal primo anno è stato il nostro sponsor, ha sostenuto il jazz in Emilia Romagna in più occasioni, quindi con noi ha una grande continuità e gli siamo molto grati. Benissimo, grazie mille a Federico Mutti, sicuramente un'iniziativa che dà spazio e visibilità al jazz anche al di fuori appunto del pubblico abituale. Grazie mille e buona giornata. Grazie, buona giornata a voi.